Amore, addormentati qua, vicino a me, mentre sento un canto dell'aldilà che fa. Na na na na na na na na na na. Apri le tue ali, vola via da questa città, da notti di periferia. Vola dove il tuo cuore sa arrivare, consola la tua anima col pregare. Nelle notti solitarie rimane solo una lacrima da osservare, straziare, autopsia di questa mia poesia. Il cuore aperto come se fosse un concerto lirico nella mia testa porto. Frasi che non ti racconto perché sono troppo sporco ora. Fango hanno gettato sul mio nome, ricordo quelle persone che credevo amiche e invece sono state le prime nemiche, le prime ad accoltellarmi, le prime a gettare fango e le loro armi. Ora applaudite i miei versi, sì, vi piacciono così, tersi di lacrime e speranze distrutte. Gente farabutte che non vogliono più notte serie, in queste notte serie, sere rotte, che fanno chimere e morte, di tombe, di amici che ricordo con passione. Rimango qui come un coglione a pensarti ancora, come chi porta dentro un problema. Rimango come qui, quando ti dico scema, sì, perché non capisci tutto ciò che striscia e ciò che pisci su di me. Rimane un verso che parla di te nel mio cuore, quello che nessuno ascolterà perché chiudo le porte della percezione. Rimangono le spalle, rimangono distrutte le mie armi, le mie spalle, le mie palle, rimangono appese sopra un chiodo. Rimangono qui e ormai sono circonciso dall'opinione pubblica, ucciso da ogni metrica, reciso le mie arterie come con un bisturi, le catene le scrivo ancora come se fossi, ancora se non fossi, e come se fossi un mito di me stesso, e piango, circonfesso. Confesso la mia anima, detesto quelle volte in cui mi sentivo da solo e non prendevo il volo, non sapevo, non speravo, non capivo, ma ora scrivo, scolpisco le mie lacrime che ti scrivo. C'è soltanto una morte disponibile nel mercato, è quella che ho comprato io, come una sedia d'IKEA, ora l'ho comprata, ora ci scrivo sopra, nelle mie lamentele a questa gioventù sballata che vuole solo farsi e drogarsi e non trova nient'altro di meglio da fare che farsi di brutto e sperare che il giorno dopo non sia così brutto, non sia così distrutto, non sia soltanto la vittoria di un farabutto, ma che le nostre vite siano libere. Speriamo che sia l'aldilà a liberarci da queste catene. Rimango qui con tutte queste sceme, rimango qui tra le scene oscene che mi fanno in catene. Rimani qui con me mentre il mattino sorge, mentre l'anima risorge, mentre l'acqua qua scorre via e porta via queste notti di periferia. Queste notti di periferia, abbracciamoci che domani sarà una nuova via.